Frida, t'ha già voluto bene, ma dopo tanto bene, se si scorda te me. Frida, bastava una parola, detta sta bocca toia, per me to consola. Chiagnerai a così lacrime amare, pagarai a così o male che mi fai, tutte pene che mi dai, tutte pene che mi dai. Frida, t'ha già voluto bene, ma dopo tanto bene, te si scordate me. Piagnerai a così lacrime amare, pagarai a così o male che mi fai, tutte pene che mi dai, tutte pene che mi dai. Frida, t'ha già voluto bene, ma dopo tanto bene, te si scorda te me, te si scorda te me, te si scorda te me.